ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. L'indice attraversa il collo da una parte all'altra e il fazzoletto nero intorno al viso resta immobile. La sentenza di morte è così pronunciata, senza una parola, da una donna per un'altra donna, da una nonna per la nipote, perché nelle terre di 'Ndrangheta chi tradisce deve morire e così è da sempre. Una regola d'onore che Giusipesce ha respirato fin da bambina. Era per lei quella condanna, perché lei, giovane donna di una delle più potenti famiglie di 'Ndrangheta, aveva tradito il marito e con lui il codice del clan, e poi perché lei aveva deciso di rinnegare le regole di quella famiglia e saltare il fosso. Giusipesce è la più importante collaboratrice di giustizia di 'Ndrangheta di questo momento, una delle varie femmine ribelli che hanno aperto una crepa nei silenzi delle cosche, ma lei è una delle poche riuscita a sopravvivere e ora anche a far condannare la sorella, i genitori e tutti i suoi parenti nel maxi processo al Gotha della 'Ndrangheta, che ha portato il 4 maggio 2013 a 40 condanne per 521 anni di carcere, 21 assoluzioni, 2 prescrizioni. A raccogliere la collaborazione di Giusipesce e a rappresentare la procura in questo maxi processo cruciale nella lotta alla 'Ndrangheta, ma finito anch'esso nel cono d'ombra che avvolge la Calabria, è un'altra donna, un magistrato arrivato a Reggio Calabria da Milano, Alessandra Cerreti. Questo maxi processo non ha riguardato una delle tante cosche mafiose, ma ha riguardato la cosca che quantomeno fino a luglio del 2010 era posta ai vertici della 'Ndrangheta complessivamente considerata, non di quella della piana di Gioia Tauro. Quindi noi con questo processo abbiamo processato il vertice, il gota della 'Ndrangheta. Al vertice della 'Ndrangheta, quantomeno fino a luglio 2010, perché l'operazione crimine scatta il 13 luglio del 2010, vi era proprio la cosca Pesce, tramite Pesce Vincenzo, che è il capobastone a piede libero in quella fase, è riuscito a ottenere con la minaccia di secessione il passaggio della carica più alta della 'Ndrangheta, cioè quella di capocrimine, storicamente di predominio della famiglia Pelle, quindi sulla costa ionica regina, è riuscita a ottenere il passaggio alla costa tirrenica nella persona di Domenico Pedisano. Ecco, questi sono i pesci sono, quindi rappresentano il gota della 'Ndrangheta. Questa sentenza, come proprio avviene sempre quando si processa il gota di una organizzazione malavitosa, vede tra i condannati anche due carabinieri. La forza pervasiva della 'Ndrangheta sta proprio in questo, cioè nella capacità di tessere una rete complessa di infiltrazioni che giungono, che esulano dall'ala prettamente militare, si inseriscono insidiosamente nelle istituzioni, riesce a raggiungere purtroppo magistrati. Questo processo è un processo importante anche perché ha visto la collaborazione di Giusipesce, una donna che di questa famiglia ha fatto parte, ma che poi a un certo punto ha deciso di collaborare con la giustizia. Secondo lei anche l'esito di questo processo può favorire anche per il futuro ulteriori collaborazioni, casomai ancora di donne? Avete segnali di questo tipo? È l'auspicio che noi ci facciamo, perché la storia di Giusipesce è una storia complessa, però è una storia a lieto fine. Giusipesce è riuscita a tenere fede al suo impegno con lo Stato, è riuscita ad affrontare un esame dipartimentale estremamente complesso e duro, si è messa a nudo innanzi al tribunale, si è fidato di questo Stato che le ha teso la mano. Tutto ciò lo ha fatto nell'interesse dei propri figli, per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato nella struttura della 'Ndrangheta, un futuro di libertà. Io ritengo e spero che la storia di Giusipesce rappresenti un esempio da seguire. Ma quindi secondo lei questa sentenza può, secondo lei, essere un ulteriore elemento che può spingere anche altre donne di altre famiglie mafiose a decidere di collaborare ora? Io ritengo assolutamente di sì. Questa sentenza per noi è fondamentale, lo è anche per la storia processuale di Giusipesce. esce perché il tribunale l'ha giudicata come imputata, come tale l'ha condannata, ma importantissimo, le ha riconosciuto l'attenuante dell'articolo 8 o legge speciale per i collaboratori, quindi è evidente che il tribunale le abbia creduto e le ha ridotto la pena, tant'è vero che Giusy Pesce è stata condannata alla pena finale di anni 4, mesi 4 di reclusione, a fronte di una condanna della sorella Marina che per gli stessi identici reati è stata condannata alla pena di anni 12, mesi 10 di reclusione. È di questo che stiamo parlando, cioè la collaborazione di Giusy Pesce ha portato alle condanne significative della sorella, dei genitori, della famiglia, che anche nei suoi confronti hanno avuto un comportamento molto particolare, di cui adesso parleremo. Lei ha avuto occasione anche di sentire la Pesce, come ha commentato questa sentenza? Non si è creata l'esigenza o l'opportunità di un nuovo interrogatorio. Posso immaginare che lei l'abbia vissuta con una sensazione di liberazione e leggerezza dal suo punto di vista, dal punto di vista familiare, conoscendola sono convinta che è gravi, diciamo, il peso delle sentenze di condanna nei confronti dei familiari. Familiari che però per lei avevano decretato una condanna a morte, una condanna che in un modo anche plastico, terribile, avete avuto modo di certificare attraverso un colloquio in carcere della nonna di Giusy Pesce. Già Giusy Pesce, ma anche altre donne che hanno teso la mano nei confronti dello Stato, avevano enunciato una vera e propria regola di eliminazione fisica nei confronti della donna che sbaglia. Si è parlato di una regola di eliminazione fisica soltanto per la colpa, tra virgolette, di aver tradito il marito. Quindi l'adulterio già per la 'ndrangheta equivale a condanna a morte nei confronti, si badi bene, della moglie. Ovviamente non vale reciproca per l'uomo. Immaginiamoci in un contesto del genere la collaborazione con l'autorità giudiziaria. È una colpa assolutamente imperdonabile che va lavato col sangue, e le collaboratrici hanno spiegato che, a differenza che per Cosa Nostra siciliana, per cui era sufficiente per lavare l'onta d'onore, che la famiglia d'appartenenza della persona da eliminare desse il consenso all'eliminazione fisica, per la 'ndrangheta si va ben oltre, cioè è necessario che la materiale uccisione venga fatto per mano del fratello maschio più grande, in assenza del padre che è quasi sempre detenuto. È una regola che ci racconta Giusy Pesce, racconta di essere, che sia stata applicata nei confronti della cugina Pesce Annunziata, colpevole di aver tradito il marito, addirittura tradendolo con un carabiniere, quindi un'onta terribile per la Toscana Fios. Abbiamo avuto, mi riferisco all'intercettazione che lei ha citato, che è materiale di questo processo, un'intercettazione inquietante di un colloquio in carcere tra il fratello della collaboratrice Pesce Francesco, classe 84, e la nonna Bonarrico Giuseppa, nell'ambito del quale, come lei ha anticipato, è emerso questo rancore, una credine molto forte e violenta da parte soprattutto della nonna. Quasi quasi in quell'occasione il fratello cercava di rabbonirla, a cui è seguito un inequivocabile gesto della signora che mimava lo strozzamento, indicato come soluzione al problema Giusy. Questa è la regola, diciamo, dell'onore, una regola che in qualche modo è quasi accettata, quasi con rassegnazione, da molte altre donne delle famiglie mafiose. Se non erro, la stessa Giusy Pesce vi racconta e vi spiega come le donne delle famiglie mafiose sono perfettamente consapevoli del fatto che la donna che tradisce o che disonora la famiglia deve essere punita con la morte. Le confesso che la mia reazione è stata di sconcerto di fronte alle prime dichiarazioni di questa ragazza che ha appena superato i 30 anni. Nel raccontarmi di questa ferrea legge d'onore, in lei ho visto un'accettazione acritica della regola, cioè lei era rassegnata ad essere uccisa perché, a suo dire, si era macchiata di una colpa indelebile. E quando io ho cominciato a farla riflettere, chiedendole se la stessa cosa sarebbe accaduta per il marito, lei mi ha risposto candidamente: ma no, che vuol dire, lui è un uomo, lui può farlo. Ho percepito una lucida consapevolezza delle ritenute responsabilità, frutto ovviamente di una subcultura mafiosa. È su quello che bisogna lavorare, nel tentativo di coinvolgere altre donne e far capire loro che il mondo non è come viene loro rappresentato dalla cultura andranghetista. Il mondo è fatto di libere scelte, senza per questo meritare la morte. Il primo passo però è farlo comprendere proprio a loro, e io ho dovuto faticare per trasmettere questo messaggio. La vita può cangiare a canterò. C'è la regola dell'onore, ma anche quella dell'amore, quello che ha spinto molte coraggiose donne calabresi a passare con lo Stato, soprattutto quando una finestra si è aperta nel loro mondo chiuso, anche grazie al web. A ciascuno il suo. La donna che tradisce o disonora la famiglia deve essere punita con la morte. C'è rassegnazione o forse accettazione e quasi condivisione nella voce di Giusy Pesce quando a EPM di Reggio Calabria racconta una delle regole più forti del codice di 'Ndrangheta, quella per cui il padre o il fratello deve uccidere la sorella che tradisce il marito con un altro uomo, anche se lui è in carcere. Eppure, proprio in questa Calabria, troppo lontana da tutto e da tutti, troppo a lungo rimossa, dove per generazioni le donne hanno accettato il dominio della mafia come si fa con la pioggia e col vento, scrisse Giorgio Bocca. Ebbene, proprio da questa Calabria sempre più donne si scoprono ora capaci di scegliere anche un nuovo amore, dopo essere state abituate invece a credere solo nell'illusione della fuitina a 13 anni o all'obbligo di concedersi al boss. Sempre più spesso una finestra è stata aperta sul loro mondo chiuso anche grazie ad internet. Pure questo racconta la storia di Giusy Pesce, la donna di mafia che ha fatto condannare il gota dell''Ndrangheta, come dicevamo nella prima parte di A ciascuno il suo, e che ha un messaggio rivoluzionario in sé. Per la prima volta, infatti, lei dice che lo Stato è un'alternativa, ricorda Alessandra Cerreti, il PM che l'ha seguita e che gli ha fatto una promessa, che quello Stato ora non abbandonerà lei e i suoi tre figli. Il contesto di cui stiamo parlando è un contesto fortemente impregnato innanzitutto da una visione maschilista dei rapporti parentali. La donna, sin da giovanissima età, viene vista come uno strumento per insaldare attraverso matrimoni fortemente sollecitati, se non addirittura imposti, alleanze tra famiglie mafiose. L'età media, considera, in cui queste ragazzine sono indotte alla cosiddetta fuitina, si intende la cosiddetta fuga d'amore dei minorenni, a cui seguirà inevitabilmente le nozze al raggiungimento della maggiore età, l'età media è addirittura 13 anni. Se scelte dal boss non possono ovviamente rifiutarsi, perché l'alternativa al sequestro di persona a cui si accompagna la violenza carnale, spesso camuffato da fuitina, perché poi ci troviamo di fronte a delle ragazze che nella sede processuale rinnegano di aver subito violenza e dicono: no, io ne ero innamorata, sono scappato con lui, ma non potrebbero far diversamente. Ecco, in questo contesto di deserto emotivo, perché poi queste ragazze sono indotte a sposare uomini che nella migliore delle ipotesi si diventano latitanti, nella più verosimile vengono arrestati, crescono i figli in totale solitudine, in un totale deserto sentimentale, emotivo. In questo contesto di isolamento, internet, come lei l'ha definita, una finestra sul mondo reale, quindi è comprensibile umanamente che, cominciando a interagire col mondo reale, anche attraverso semplici chat o Facebook, si scopre un mondo emotivamente diverso e soprattutto emotivamente libero. Proprio internet determina, come dire, un'esplosione emotiva di queste giovani donne che per la prima volta si trovano corteggiate attraverso internet, non per essere figlio del boss Pesce o del boss Cacciola, ma per essere semplicemente Giusy o Mary Concetta, cioè delle giovani donne, belle ragazze che non hanno mai avuto un approccio con un uomo che esuli dal contesto di appartenenza, e questo le fa esplodere emotivamente. Ecco, dottoressa Cerreti, la stessa Giusy Pesce, oltre a spiegarvi chiaramente, a raccontarvi e a documentare quello che riguarda la sua storia, quella della sua famiglia, vi ha parlato però anche di casi di altre donne scomparse o di delitti che non si sono mai chiariti nel tempo. Quando durante il processo gli avvocati continuavano a chiederle qual era la sua fonte di conoscenza, lei non faceva che rispondere: io queste cose le ho respirate tra le mura di casa, mi sono sempre state raccontate. Non ha sottaciuto il fatto che soprattutto la scomparsa della cugina Pesce Annunziata, colpevole di aver tradito il marito addirittura con un carabiniere, cioè un coraggio che solo una donna innamorata pazza può avere in un contesto di 'Ndrangheta di 30 anni fa. Lei ne era consapevole, anzi ha dichiarato che il marito, come un mantra, ricordava questa storia quasi a monito. Perché poi le punizioni non riguardano a volte soltanto la singola donna, ma come è stato nel caso appunto di Maria Teresa Gallucci, quando arrivò per lei la punizione per quel codice infranto, furono uccise anche altre due donne, una bambina e la mamma. Le altre due donne erano state trovate nella stessa situazione, nello stesso appartamento, e appunto i sicari non hanno esitato a ucciderle tutte e tre. Se quella di Giusy Pesce, come dicevamo prima, è una storia che ha un lieto fine per lei, molte altre invece non l'hanno avuta. Ci sono quelle la cui sorte non è stata ancora mai chiarita, ci sono quelle che sono state ammazzate e ci sono quelle che sono state fatte suicidare, come ad esempio Maria Concetta Cacciola, ma ci sono molte altre donne che hanno avuto una fine tragica e analoga, come Domenica Legato, Titta Buttafusco, la dicevamo prima, Maria Teresa Gallucci, oppure ancora indietro nel tempo Angela Costantino a Reggio Calabria. Poi le indagini scoprono che non è un vero suicidio, anche con l'acido muriatico. Mi colpisce perché è lo stesso acido che viene utilizzato per chi vuole aggredire soprattutto la donna dall'esterno. Quell'acido muriatico invece che quelle donne vengono costrette a bere le brucia dentro fino alla morte. C'è una lettura secondo voi? Dobbiamo chiederci quale messaggio una morta attraverso l'ingestione di acido muriatico dà all'esterno. Noi utilizziamo l'acido muriatico per pulire il water. All'esterno il messaggio è: ecco la fine che fa chi parla. In più, nei confronti di una donna è la peggiore morte, distrugge tutto, distrugge le mucose, distrugge gli organi interni, distrugge il viso. È per questo che ho sempre difficoltà ad accettare che una donna, soprattutto se giovane, decida di darsi questa morte atroce. È molto più semplice salire su una terrazza e buttarsi giù. Si dà un messaggio all'esterno: ecco la fine che fa chi collabora, c'è la totale distruzione interna ed esterna. E questo è appunto il monito forte che si vuole mandare per evitare che appunto altre decidano di collaborare, perché non dimentichiamolo mai che la decisione di queste donne, anche Simona Napoli, è quanto in questo momento sta preoccupando di più le cosche. Giusy Pesce vi scrive, vi dice anche nei travagli della sua collaborazione che lo faceva per i figli, per evitare che i figli maschi giovanissimi fossero arruolati dai clan e la figlia femmina, come dicevamo, a 13 anni già confidare nell'illusione della fuitina. Ma quando vi ha spiegato il perché del suo travaglio e anche degli attacchi che in qualche modo erano stati rivolti anche a voi magistrati, come ve li ha raccontati? Ci ha spiegato le pressioni fortissime che lei aveva subito da parte della famiglia di provenienza, della famiglia del marito, pressioni che si sono concretizzate attraverso la strumentalizzazione dei figli minori. A una donna madre è molto facile arrivare direttamente a colpirla al cuore. Infatti ai bambini non sono stati risparmiati traumi di sorta per raggiungere questo obiettivo. Ci ha spiegato di aver ceduto nel momento in cui ha avuto paura per l'incolumità dei bambini e soprattutto non sentiva più l'apporto della sua figlia maggiore, che all'epoca aveva 16 anni, tra i tre colei che ha sofferto maggiormente, ha vissuto maggiormente la scelta collaborativa della madre e adesso la condivide in tutto. Ecco, Giusy ha ceduto nel momento in cui non aveva più l'appoggio della figlia, che hanno riuscito a strumentalizzarla in maniera tale e metterla contro la madre. Giusy ha fatto tutto questo percorso, nessuna sofferenza le è stata risparmiata, ma lei, e questo è il segreto, si è fidata fino in fondo dello Stato, e ha capito che collaborare con lo Stato era un atto di amore verso i propri figli. È proprio questo che rende la collaborazione di Giusy pericolosissima per tutta l'Andrangheta, perché lo Stato da sempre ritenuto acerrimo nemico, per la prima volta, e lo dice una donna di 'Ndrangheta, dice: no, lo Stato è l'alternativa di vita per i miei figli. Ecco, questo è il messaggio rivoluzionario e inaccettabile che Giusy Pesce porta. Nelle fasi complicate della decisione di una donna di collaborare, sono schemi anche già visti in altre situazioni, ci passa anche sempre il tentativo non solo di denigrare chi collabora, ma anche i magistrati. Lei come ha vissuto questi due anni di processo? Che clima c'è stato? Di elevatissima tensione, di personalizzazione della responsabilità dell'ufficio del pubblico ministero altrettanto elevata. Ha subito anche minacce lei? La 'Ndrangheta raramente minaccia espressamente. Possono passare attraverso la delegittimazione, dichiarazioni spontanee dal capomafia in 41 bis che colpevolizza il pubblico ministero per quanto quanto riguarda il tentativo di delegittimazione, nulla di strano, a questo ci siamo abituati. Dottoressa, è vero che Giusy Pesce a un certo punto le ha confidato: mi dispiace che poi a un certo punto non la incontrerò più, quando non ci sarà più esigenza di interrogatori? Una giovane donna che mette nelle mani dello Stato se stessa e i suoi bambini. Io credo che non ci poteva essere un maggiore atto di fiducia da parte di Giusy Pesce nei confronti dello Stato che io ho avuto l'onore di rappresentare, tenendo nelle proprie mani il destino di se stessa e dei propri bambini. A ciò si aggiunga che ciò ha comportato inevitabilmente la rescissione di tutti i legami affettivi di origine. Certo. Giusy Pesce in questo momento può contare solo su se stessa, sui tre bambini, sull'avvocato che la difende in maniera eccezionale e sul pubblico ministero di cui si è fidata. Io ho sempre garantito che lo Stato le sarà accanto e non la abbandonerà anche quando i riflettori su questo processo e sulla sua storia si saranno spenti. Lì inizierà il pericolo per lei. Perché poi l'Andrangheta non dimentica neanche dopo anni. E appunto per questo lo Stato le sarà accanto fino a quando lei lo vorrà. Fino a quando lei lo vorrà. Anche voi pensate che il coraggio di donne come Giusy Pesce possa davvero indebolire l'Andrangheta? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!